A mano che il tempo e il clima andarono migliorando, migliorò anche la salute di Charlotte e la sua capacità di scrivere aumentò. Si mise con raddoppiato vigore di fronte al lavoro che l'attendeva e si negò ogni indulgenza pur di portarlo avanti. Scrive all'amica. 11 maggio. Cara E, devo essere fedele alla risoluzione di non fare e di non ricevere visite, per ora. Startene quieta a B fino alla tua andata S, come me ne starò quieta io qui a Haworth. Un sincero buon viaggio può essere dato e ricevuto tanto col cuore che con le labbra e forse in modo meno penoso. Sono lieta che il tempo sia cambiato. Il ritorno del vento di sud-ovest mi giova e spero che tu non abbia motivo di rimpiangere la partenza del tuo favorito vento dell'est. Quando dici a proposito di non mi sorprende, io ho ricevuto da lei molte letterine alle quali risposi in misura di una ogni tre, che esprimevano lo stesso umore. Gli unici argomenti che assorbono ogni suo interesse sono se stessa e il bambino. Le infinite variazioni sul tema sono esasperanti, ma penso che non bisogna badarci né pensare che il caso sia unico. Temo anche che non ci si possa aspettare un miglioramento. Ho letto ultimamente in un libro francese una frase che dice: il matrimonio può essere definito un egoismo moltiplicato per due. Lascia dunque che il singolo si consoli. Grazie per la lettera di Mary. Sembra davvero molto felice e non so dirti quanto la felicità sua sembri più reale, duratura e meglio garantita di quanto mai lo sembrò quella di. Penso che dipenda molto da lei, dalla sua indole serena, pura, fiduciosa e religiosa. Quella di mi dà sempre l'impressione di un rapido scoppio instabile, sempre dipendente dalle circostanze e dalle loro fluttuazioni. Se Mary diventerà madre, allora vedrai che differenza. Ti auguro, cara E, tutta la salute e il divertimento possibili durante la visita che farai, e sembra che vi sia una buona probabilità di vedere questo augurio realizzato. Sinceramente tua, Charlotte Bronte. Capitolo 11. Il lettore e la lettrice ricorderanno che Anne Bronte era stata seppellita nel cimitero della Old Church di Scarborough. Charlotte aveva lasciato disposizioni per una lapide, ma spesso, nella solitudine dello scorso inverno, i suoi tristi e ansiosi pensieri erano ritornati sulla scena di quest'ultimo grande dolore e si era chiesta se tutte le dovute cure erano state rivolte alla memoria della defunta. Alla fine prese la tacita risoluzione di andare a vedere di persona se la lapide e l'iscrizione erano in buone condizioni. Cliff House, Filey, 6 giugno 1852. Cara E, mi trovo a Filey, completamente sola. Non prendertela con me, ho fatto un passo giusto. Ho riflettuto e deciso con la debita considerazione che un cambiamento d'aria mi era necessario. Avevo un motivo per non andare a sud e per venire invece qui. Venerdì scorso mi recai a Scarborough e visitai il cimitero e la tomba. Deve essere messa in ordine, l'iscrizione è corretta, vi sono 5 errori. Ah, ho dato gli ordini necessari, questo dovere dunque è compiuto. A lungo mi era pesato sulla mente ed era un pellegrinaggio che sentivo di dover fare da sola. Occupo il nostro antico quartiere da Mr. Smith, non proprio le stesse stanze, ma un appartamento meno caro. Sono sembrati contenti di vedermi, ci ricordavano benissimo e a quanto pare con grande simpatia. La figlia che provvede al nostro servizio si è sposata da poco. Filey mi sembra assai cambiata, un gran numero di pensioni, alcune molto belle, sono state costruite. Il mare ha tutta la sua antica maestà. Passeggio a lungo sulla spiaggia e mi sforzo di non sentirmi desolata e malinconica. Quanto dolorosamente il mio cuore ti cerchi, non ho bisogno di dirlo. Ho fatto un bagno, sembra che mi abbia fatto bene. Può darsi che mi trattenga qui per una quindicina di giorni. Per il momento non vi è quasi nessun turista. Nella grande casa di cui eri solita osservare gli ospiti con tanta attenzione, ora abita una certa Lady Wenlock. Un giorno mi sono messa in cammino con l'intento di andare a piedi fino a Filey Bridge, ma sono stata messa in fuga da due mucche. Ho intenzione di ritentare l'impresa una di queste mattine. Ho lasciato papà in buone condizioni. Da quando sono giunta sono stata tormentata dal mal di capo e da fitte al fianco, ma penso che siano dovute al vento freddo, visto che fino a pochi giorni fa abbiamo avuto freddo davvero. Ora mi sento meglio. Debbo mandarti i giornali come al solito? Scrivimi a volta di corriere e dimmelo, dimmi anche ogni altra cosa che ti viene in mente. Credimi la tua fedele Charlotte Bronte. Filey, 16 giugno 1852. Cara E, mettiti il cuore in pace a mio proposito. Penso veramente di star meglio grazie a questo mio soggiorno a Filey. Ne ho ricavato più beneficio di quanto avessi osato sperare. Penso che se potessi rimanere qui 2 mesi e godere di lieta compagnia, oltre che di esercizio fisico e aria buona, la mia salute rifiorirebbe completamente. Questo però è assolutamente impossibile, ma rendo grazie al cielo per il bene ricevuto. Rimango qui per un'altra settimana. Ti restituisco la lettera di... Sono spiacente per lei. Credo che soffra, ma non mi piace il tono in cui si esprime. Tanto il dolore quanto la gioia si manifestano nei modi più svariati secondo le persone che li provano, e sono sicura che è sincera e commossa quando parla del suo santo e prezioso padre, ma a me piacerebbe un linguaggio più semplice. Poco dopo il ritorno da Filey fu allarmata da una crisi acuta e grave di Mr. Bronte. Per alcuni giorni si temette la definitiva perdita della vista e sotto una simile minaccia egli cadde in depressione. Questa prostrazione psichica, scrive la figlia, che accompagna ogni sintomo di ricaduta, è forse la più difficile da controllare. Cara E, sei teneramente gentile nell'offrire la tua compagnia, ma statene tranquillissima dove ti trovi. Sta pur certa che non è in questo momento che sento la mancanza di compagnia e di occupazione. Il mio tempo è tutto preso, e i miei pensieri pure. Non posso permettermi di fare molti commenti su quanto mi dici nell'ultima tua. Non occorrono consigli, per quanto mi è dato di giudicare, mi sembri assolutamente capace di sopportare questa prova con spirito e saggezza. Posso solamente pregare che la forza unita alla rassegnazione non ti venga meno. Rassegnazione, coraggio, azione possono essere messe in pratica. A me sembrano le armi con le quali dobbiamo combattere la lunga battaglia della vita. Proprio mentre tutti i pensieri erano presi dall'ansia per il padre, ricevette una lettera dai suoi editori che si informavano su come procedesse il lavoro che aveva in mano. Trovo infatti la lettera seguente indirizzata a Mr. Williams, con riferimenti a una qualche proposta da parte di Smith e Elder. A W. S. Williams, 28 luglio 1852. Caro signore, è in programma di pubblicare al più presto la nuova edizione di Shirley? Non sarebbe meglio aspettare per il momento? Facendo riferimento a un'altra parte della sua lettera, mi permetta di esprimere il desiderio, e spero che ciò non verrà considerato come un'indebita intromissione da parte di una scrittrice, che non venga annunciato un nuovo lavoro dell'autrice di Jane Eyre finché il manoscritto completo non sarà in mano ai miei editori. Forse nessuno di noi può parlare con grande sicurezza del futuro, ma per alcuni la precauzione non può mai essere troppa. Nel loro numero devo includere me stessa, e nel farlo non devo scusarmi. Agisce bene chi agisce secondo le sue convinzioni. Lo scorso autunno procedetti speditamente per un certo tempo. Mi avventurai a prospettare la primavera successiva per la pubblicazione, ma la salute cedette. Trascorsi un inverno tale che, avendolo vissuto una volta, non lo dimenticherò mai più. La primavera si dimostrò di poco migliore. La stagione calda e un soggiorno al mare mi hanno fatto un gran bene fisicamente, ma fino a questo momento non ho recuperato né l'elasticità di spirito né il fluire dell'ispirazione necessaria al comporre. E anche se fosse altrimenti non servirebbe a nulla. Il mio tempo e i miei pensieri sono interamente assorbiti dalle cure che presto a mio padre, la cui salute è in situazione assai critica, l'intenso caldo estivo avendogli provocato un afflusso di sangue al cervello. Sono sinceramente sua, Charlotte Bronte. Verso la fine di agosto, Mr. Bronte entrò in convalescenza e si disse ansioso di riassumere gli impegni del ministero parrocchiale, ma dovette insistere alquanto prima che la prudente figlia glielo consentisse. Il 14 settembre morì il grande duca. Egli era stato, come abbiamo visto, l'eroe di Charlotte, il duca di Wellington, fin dall'infanzia, ma non trovo in questa occasione alcun commento all'infuori di quanto scrive all'amica. Spero e credo che i cambiamenti che si sono succeduti durante l'estate ti abbiano fatto un bene che durerà, nonostante le pene con le quali sono stati troppo frequentemente frammisti. Tuttavia sono lieta che tu sia sul punto di tornare a casa, e veramente non posso dire quanto desidero che giunga il momento in cui, senza ostacoli o contrattempi, potrò nuovamente darti il benvenuto a Haworth. Ma ahimè non faccio progressi, cado in preda all'inquietudine. Mi sento incapace, a volte molto depressa. Tuttavia non debbo indulgere in questo argomento. Mi incalza con troppa asprezza e pena. Meno che mai potrò gustare o conoscere un qualche piacere finché non avrò concluso questo lavoro. Eppure spesso mi sveglio di notte pensando a te e desiderando la tua presenza. Grazie per il Times. Quanto si dice sul maestoso e luttuoso fatto è detto bene. All'improvviso sembra che tutta la nazione inquadri nella giusta luce quel grand'uomo. Vi era anche la critica di un libro americano. Sono stata contenta di leggerla. Leggi La capanna dello zio Tom. Ma probabilmente l'hai già letto. La salute di papà, grazie a Dio, continua a essere soddisfacente. Per quel che mi riguarda, il mio disgraziato fegato ne ha fatte nuovamente delle sue, ma spero che ora rinsavierà, mi intralcia nel lavoro, deprime tanto il vigore quanto il tono. Devo aspettarmi di soffrire questo inconveniente di tanto in tanto. Haworth, come al solito, era preda di epidemie e Miss Bronte e Tabby ne furono vittime. Alla prima occorse molto tempo per ristabilirsi. La risoluzione di non concedersi alcuna compagnia e cambiamento d'ambiente se non dopo aver condotto a termine il lavoro che aveva in mano fu vana. Stava troppo male per essere in grado di scrivere e con la malattia era tornato il peso che spesso le opprimeva il cuore, il ricordo del passato e le tristi previsioni per l'avvenire. Alla fine, Mr. Bronte insisté tanto che l'amica venisse invitata e anche Charlotte capì quanto un po' di ristoro le era necessario che il 9 ottobre la invitò a Haworth per una settimana. Scrive, Charlotte, pensavo che avrei persistito nel sacrificarmi finché non avessi finito il mio lavoro, ma mi accorgo che non serve. Il racconto rifiuta di progredire e questa esagerata solitudine mi opprime troppo pesantemente. Così lascia che io veda il tuo caro viso e appena per una settimana. Charlotte si ostinò ad accettare la compagnia dell'amica solo per il periodo di tempo stipulato. Il 21 ottobre scrive a Miss Wooler quanto segue: E mi è stata compagna appena per una piccola settimana. Non ho voluto trattenerla di più perché sono disgustata di me stessa e dei miei ritardi e considero che l'averla fatta venire anche per poco fu, da parte mia, un cedere alla tentazione, ma veramente mi andavo deprimendo sempre più. A volte ero prostrata e lei mi ha fatto un inesprimibile bene. Mi chiedo quando mi sarà dato di rivedere anche lei a Haworth. Mio padre e le domestiche hanno chiaramente fatto capire durante l'estate e l'autunno il desiderio che io la invitassi, ma ho sempre fatto orecchio da mercante. Pensavo, prima voglio essere libera. Il lavoro ha la precedenza sul piacere. La visita di Miss E le aveva fatto molto bene. La piacevole compagnia durante il giorno aveva prodotto l'insolita beatitudine di un calmo riposo di notte e dopo la partenza dell'amica si sentì abbastanza bene per riprendere in mano le cose e scrisse quasi ininterrottamente avviando il suo romanzo Villette alla conclusione. La lettera che riporto sembra abbia accompagnato l'invio all'editore Mr. Smith della prima parte del manoscritto. 30 ottobre 1852. Caro signore, quando avrà letto Villette, dovrà dichiarare onestamente quel che ne pensa. Non so dirle quanto anelo di sentire l'opinione altrui oltre alla mia. E quanto a volte mi sono scoraggiata o quasi disperato non avendo nessuno vicino a cui leggere almeno una riga o chiedere un consiglio. Jane Eyre non fu scritta in simili condizioni e neanche i primi due terzi di Shirley. Ero così depressa che non potevo nemmeno sopportare che si facesse allusione al mio nuovo libro. Non è ancora finito, ma non dispero. In quanto alla pubblicazione anonima, ecco quanto ho da dire. Se tener nascosto il nome dell'autore dovesse danneggiare materialmente le ordinazioni dei librai e via dicendo, non insisterò, ma se un tale risultato negativo non è da temere, gradirei moltissimo l'ombra protettrice dell'incognito. Temo la propaganda, le scritte a caratteri cubitali, il nuovo romanzo di Currer Bell o un nuovo lavoro dell'autore di Jane Eyre. Queste tuttavia sono, capisco benissimo, le fisime di una misera reclusa, perciò mi dica la sua francamente. Avrò piacere di vedere il colonnello Esmond. Le mie obiezioni al secondo volume di quest'opera consistono in quanto segue. Penso che senz'altro contiene troppa storia e troppo poca narrazione. In un'altra lettera riguardo a Esmond, scrive quanto segue. Il terzo volume mi è sembrato il migliore dal punto di vista del brio, dello slancio, dell'interesse che suscita nel lettore. Del primo e del secondo le avevo detto che alcune parti erano ammirevoli, ma che presentavano il difetto di contenere troppa storia e troppo poco racconto. Sostengo che un romanzo, inteso a narrare fatti inventati, deve essere una vera e propria creazione, che il reale deve essere introdotto parsimoniosamente in pagine dedicate all'ideale. Il semplice pane casereccio è un alimento di gran lunga più sano e necessario di quanto non lo sia una torta. Tuttavia, a chi piacerebbe vedere la pagnotta dalla scura mollica portata in tavola al momento della frutta? Nel secondo volume l'autore ci dà un'abbondante porzione di eccellente pane scuro. Nel terzo trovo solamente quel tanto di sostanza che le briciole di pane danno a un non troppo succulento budino con l'uvetta. La lettera a Mr. Smith contenente le allusioni a Esmond continua. Lei vedrà che Villette non tocca alcun tema di pubblico interesse. Non so scrivere libri che trattano gli argomenti del giorno. È inutile che tenti. Né sono capace di scrivere un libro per ricavarne una morale, né saprei darmi un tema filantropico, benché onori la filantropia e volontariamente e sinceramente mi copro la testa di fronte a un tema come quello trattato da Mrs. Beecher Stowe nel suo La capanna dello zio Tom. Per avvicinare argomenti di questo genere bisogna studiarli a lungo e dal vero. Le loro implicazioni devono essere ben note. E i mali che provocano genuinamente sentiti non devono essere scelti per interesse e speculazioni commerciali. Non metto in dubbio che Mrs. Tao abbia sentito fin dall'infanzia la fredda lama della schiavitù penetrarle nel cuore lungo tempo prima di pensare a scrivere dei libri. Il sentimento che pervade tutto il lavoro è sincero, non artificioso. Si rammenti di criticare onestamente Villette e dica a Mr. Williams di non risparmiarmi. Non che io sia disposta a cambiarvi alcunché, ma voglio conoscere le sue e le vostre impressioni. A G. Smith, 3 novembre. Caro signore, le sono riconoscente per la sua lettera, mi ha sollevata molto, poiché ero veramente tormentata dal dubbio di come Villette poteva apparire a occhi diversi dai miei. Mi sento autorizzata a confidare nelle sue impressioni favorevoli, perché ha sempre ragione nelle sue critiche. Lei ha azzeccato perlomeno due punti dei cui difetti avevo coscienza: il divario, la mancanza di perfetta armonia tra l'infanzia e la maturità di Graham, e il modo spigoloso e brusco con cui cambiano i suoi sentimenti verso Miss Fanshawe. Tuttavia, bisogna ricordare che segretamente egli aveva apprezzato quella signorina a un livello un po' inferiore a quello degli angeli. Tuttavia, la lettrice avrebbe dovuto essere meglio preparata al cambiamento d'umore. In quanto alle intese per la pubblicazione, le lascio interamente a discrezione dell'editore. Vi è indubbiamente una certa forza in quanto lei dice sull'opportunità di affettare un mistero che non potrà essere mantenuto, perciò agisca pure come meglio crede. Mi sottometto anche alla pubblicità, ma previa protesta e col desiderio di poter fare come lo struzzo che nasconde il capo nella sabbia. La maggior parte del terzo volume è dedicata al burbero carattere del professore. Lucy non deve sposare il dottor John, che è di gran lunga troppo giovane, bello, brillante e di buon carattere. È un tesoro della natura e della sorte, deve avere un premio alla lotteria della vita. Sua moglie deve essere giovane, ricca, graziosa e deve renderlo veramente molto felice. Se Lucy finirà per sposarsi, deve essere col professore, un uomo a cui vi è molto da perdonare, dal quale si deve molto sopportare, ma mi sento disposta all'indulgenza verso Miss Frost. Fin dall'inizio non ho avuto l'intenzione di collocarla in situazioni piacevoli. La conclusione di questo terzo volume è ancora per me motivo di una certa ansietà. Tuttavia ho fatto del mio meglio. Sarà rapidamente finito se mi riuscirà di tenere a bada alcune cefalee che ogni volta che mi immergo completamente nello spirito del mio lavoro hanno la brutta abitudine di afferrarmi e buttarmi giù. Il colonnello Henry Esmond è appena arrivato. Ha un aspetto molto antico e distinto nella sua veste Regina Anna. La parrucca, lo spadino, i pizzi e le arricciature sono perfettamente rappresentate dai vecchi caratteri di stampa dello Spectator. Facendo riferimento a una frase che chiude questa lettera, posso riportare quanto mi disse lei stessa. Mr. Bronte voleva assolutamente che il suo nuovo romanzo fosse a lieto fine. A lui non piacevano i romanzi che lasciavano in mente una scia malinconica. Le aveva chiesto di far sì che i due personaggi centrali, come gli eroi e le eroine delle fiabe, si sposassero e vissero sempre felici. Ma l'idea della morte in mare di Paul Emanuel le si era impressa nella mente con tanto vigore da assumere il carattere della realtà, e non poteva cambiare la vicenda immaginata più di un resoconto di fatti realmente accaduti. Per venire incontro al desiderio paterno, aveva accettato di alludere al destino del protagonista in modo velato, così da permettere all'indole e al discernimento delle lettrici o dei lettori di interpretarne il significato. A. W. S. Williams, 6 novembre 1852. Caro signore, non devo tardare a ringraziarla della sua gentile lettera con il franco e acuto commento su Villette. Con molti dei suoi appunti concordo, al terzo volume forse se ne potrebbero risparmiare alcuni, altri sono appropriati. Non penso che il culmine dell'interesse raggiunga il grado da lei auspicato. Il vertice è toccato solamente verso la conclusione, e anche allora temo che l'abituale lettore di romanzi o lettrice non troverà lo strazio accumulato a mucchi, come dicono gli americani, i colori messi a rapide pennellate sulla tela con abbastanza ardimento. Tuttavia, temo, si dovranno accontentare con quanto viene loro offerto. La mia tavolozza non possiede tinte più vivide. Se tentassi di approfondire i rossi, di appesantire i gialli, otterrei solamente delle chiazze confuse. A meno che non mi inganni, si noterà che l'emozione contenuta nel libro è mantenuta in sordina lungo tutto lo svolgimento. In quanto al nome dell'eroina, non saprei dire quale sottigliezza di pensiero mi ha indotto a darle un cognome freddo. Da principio la indicai come Lucy Snow, con una E finale, in quanto Snow è la neve. Poi mutai questo Snow in Frost, gelo. Susseguentemente rimpiansi il cambiamento e tornai allo Snow, neve. Se non è troppo tardi, vorrei che se ne tenesse conto. Deve avere un cognome freddo, forse un po' in base al principio Lucus a non lucendum, e un po' per una giusta combinazione, poiché esteriormente ella è fredda. Lei dice che potrà essere considerata melanconica e debole, a meno che non ne venga narrata per esteso tutta la vita. Io penso che in certi momenti è melanconica e debole. La sua indole non è intesa come esempio di forza senza falla, d'altronde chiunque fosse condannato a vivere la sua vita lo diverrebbe inevitabilmente. Per esempio, non è un sano slancio che la spinge verso il confessionale. È il semidelirio del dolore solitario e della malattia. Se tuttavia il libro non esprime tutto ciò, deve esserci un grave errore in qualche punto. Potrei spiegare alcuni altri punti, ma sarebbe come dopo aver disegnato un oggetto scrivervi sotto il nome di quello che rappresenta. Sappiamo che genere di disegno sia quello che ha bisogno del titolo per essere spiegato. Ringraziandola ancora una volta per la chiarezza e la compiutezza con le quali ha aderito alla mia richiesta di esprimere le sue impressioni, sono, caro signore, sinceramente sua, Charlotte Bronte. Confido che il manoscritto sia visto solamente da lei e da Mr. Smith. 10 novembre 1852. Caro signore, desideravo che la seconda edizione di Shirley venisse ritardata solo finché Villette non fosse finito. Perciò ora non vi è alcuna obiezione a farlo uscire in qualsiasi momento, a lei sembri opportuno. In quanto a iniziare fin d'ora la stampa del manoscritto, posso solamente dire che se sarò in condizione di procedere col terzo volume al ritmo con cui sono solita comporre, senza interruzioni, spererei di averlo pronto in 3 settimane. Lascio a lei il decidere se sia meglio ritardarne la stampa per questo tempo o iniziarla immediatamente. Certo, sarebbe più soddisfacente che prima di dare alle stampe il primo e il secondo volume lei vedesse anche il terzo. Tuttavia, se il ritardo dovesse esserle dannoso, non penso sia indispensabile accontentarmi. Mi chiedo se non sia opportuno approfittare del gentile invito di Mrs. Smith e trovarmi sul posto per correggere le bozze di stampa. Mi creda, sinceramente sua, Charlotte Bronte. La lettera seguente è riportata non solamente a motivo dell'autocritica su Villette, ma perché dimostra la sua abitudine a ingigantire cose di poca importanza, come accade a quelli che conducono una vita introversa e solitaria. Mr. Smith non aveva potuto scrivere una lettera da far partire insieme al denaro che le inviava per Villette, perciò lo ricevette senza l'accompagnamento di una riga. L'amica di cui era ospite dice che Charlotte subito pensò che vi fosse qualche cosa che non andava a proposito di Villette o di aver offeso il mittente con una qualche parola o gesto involontari, e se non ci fosse stata di mezzo una domenica che diede tempo alla lettera di Mr. Smith di arrivare, Charlotte l'avrebbe certamente incrociata partendo immediatamente per Londra. 6 dicembre 1852. Caro signore, gli assegni mi sono giunti felicemente. Ricevendo il primo sabato senza una riga di accompagnamento, avevo deciso di prendere il treno lunedì e venire a Londra per accertarmi se ci fosse qualcosa che non andava, tanto da aver fatto ammutolire il mio editore. Domenica mattina giunse la sua lettera e così le è stata risparmiata la comparsa a Cornhill dell'inatteso e non convocato Carrer Bell. I ritardi inesplicabili dovrebbero essere evitati perché sono fatti apposta per spingere chi è sottoposto al loro molesto tormento a passi impulsivi. Devo nuovamente dichiarare che lei ha perfettamente ragione quando lamenta lo spostamento dell'interesse nel terzo volume da uno dei personaggi a un altro. Non è piacevole e probabilmente sembrerà inopportuno al lettore quanto fu, in un certo senso, necessario per chi ha scritto. Lo spirito romantico indicava una diversa direzione, assai più fiorita e invitante. Avrebbe forgiato un eroe esemplare, gli sarebbe rimasto fedele e l'avrebbe reso supremamente adorabile. Avrebbe creato un idolo e per di più non un idolo muto e insensibile. Ma tutto ciò sarebbe stato del tutto irreale, inconsistente e impossibile. Temo vivamente che il personaggio più debole nel libro è quello che intendevo fare più bello, e se questo fosse realmente il caso, il difetto sta nell'assenza in lui del germe della realtà, nel suo essere puramente immaginario. Scrivendo mi sono resa conto che a questo personaggio mancava salda sostanza. Temo che il lettore ne ricaverà la stessa impressione. Una unione con lui risulterebbe troppo simile al destino di Sione, sposato a una nuvola. Penso che l'infanzia di Paolina sia immaginata bene, ma in quanto a lei, il resto dell'interessante frase è strappato. Una breve visita a Londra diventa così più praticabile, e se sua madre vorrà gentilmente scrivermi quando ne avrà tempo e indicarmi un giorno dopo Natale che vada bene per lei, avrò il piacere, la salute di papà permettendo, di approfittare del suo invito. Spero di poter arrivare in tempo a correggere almeno alcune delle bozze. Risparmierebbe molte complicazioni.